Casa di riposo Rose Terrace, Birmingham, Alabama, 14 settembre 1986. Evelyn e la signora Threadgood stavano facendo due passi dietro la casa di riposo quando passò sopra di loro uno stormo di anatre canadesi che lanciarono grida di giubilo in direzione del cielo autunnale. Oh, Evelyn, non le piacerebbe andare con loro? Chissà dove sverneranno. Ma in Florida? O magari a Cuba? Lei crede? È probabile. Beh, non mi dispiacerebbe andare in Florida, ma non ci tengo affatto a vedere Cuba. Smokey diceva sempre che quelle anatre erano amiche sue, e che quando gli domandavamo dove gli sarebbe piaciuto andare, lui rispondeva dove vanno le anatre selvatiche. Le guardarono volare finché non furono sparite, poi ripresero la loro passeggiata. A lei non piacciono le anatre? Sono carine, certo. Oh, io le adoro, ho sempre avuto un debole per i volatili. I che? I volatili, polli, animali con le penne, uccelli, pavoni. Oh! La mattina Cleo e io prendevamo il caffè sotto il portico e guardavamo l'alba, ascoltando il canto degli uccelli. Bevevamo sempre almeno 3 o 4 tazze di buon caffè caldo con pane tostato e marmellata di pesche o pepe verde. E intanto chiacchieravamo. Beh, insomma, io chiacchieravo e lui ascoltava. Intorno a casa nostra vivevano un sacco di uccellini, petirossi, passeri, soprattutto colombe. Adesso gli uccelli sembrano molto meno numerosi di una volta. Un giorno Cleo, mentre usciva di casa, mi indicò i merli appollaiati sui fili del telefono e mi disse: «Stai attenta a quello che dici al telefono oggi, Ninni. Sono lì per ascoltare le tue telefonate. Possono sentirle attraverso le zampe». La signora Threadgood guardò Evelyn. «Secondo lei era vero?» «Secondo me la stava prendendo in giro, signora Threadgood». Probabilmente è così, ma quando avevo un segreto da confidare a qualcuno, prima guardavo fuori della porta per vedere che non ci fossero merli sui fili del telefono. Cleo non avrebbe mai dovuto dirmelo, sapendo quanto mi piacesse chiacchierare al telefono. Chiamavo tutta la città. Un tempo c'erano almeno 250 residenti a Whistle Stop, ma quando i treni cominciarono a diradarsi, gli abitanti cominciarono a migrare, proprio come gli uccelli. Andarono a Birmingham o in altri posti e non tornarono più. Al posto del caffè adesso c'è un Big Mac e sulla strada principale hanno aperto un supermercato dove andava sempre la signora Otis perché poteva raccogliere i punti, ma io non ci ho mai trovato nulla di quello che cercavo e le luci mi davano fastidio. Così quando avevo bisogno di qualcosa preferivo andare a Trutville nel negozio di Ossie. La signora Threadgood si interruppe. Oh Evelyn, lo sente questo profumo? Stanno cuocendo qualcosa sul barbecue. Non credo, tesoro, mi sembra che stiano soltanto bruciando delle foglie secche. Però l'odore è lo stesso del barbecue. A lei piace il barbecue, io ne vado pazza. Pagherei $1 milione per un barbecue come quello di Big George e una fetta della torta al limone di Sipsi. Era il barbecue migliore del mondo. Big George lo preparava sul retro del caffè e l'odore arrivava a miglia e miglia di distanza, soprattutto in autunno. Lo sentivo anche da casa mia. Una volta Smokey raccontò di averlo sentito a 10 miglia da Whistle Stop, lungo i binari. La gente veniva da Birmingham per mangiarlo. Voi dove andate quando volete un buon barbecue? Al Golden Rule o da Holly? Ma li ho provati anch'io e non sono male, ma dica pure quello che vuole. I negri sanno cucinare il barbecue con molto meglio dei bianchi. Secondo me sanno fare meglio tutte le cose. Vorrei avere la pelle nera. Vorrebbe essere una donna di colore? Sì. La signora Threadgood era sconcertata. Ma perché, cara? Loro vorrebbero essere bianchi. Non fanno altro che schiarirsi la pelle e lisciarsi i capelli. Ah, non più come una volta. Forse no, ma fino a poco tempo fa era così. Dovrebbe ringraziare il buon Dio di averla creata bianca, cara. Non riesco a immaginare come qualcuno possa desiderare di essere negro senza esserci costretto. Non so spiegarle perché. Mi sembra che vadano più d'accordo l'uno con l'altro, che si divertano di più. Io mi sono sempre sentita impacciata. Invece loro hanno l'aria di chi se la spassa dalla mattina alla sera. La signora Threadgood rifletté per qualche istante. Questo è vero, si divertono molto e sanno lasciarsi andare quando vogliono, ma hanno anche molti dispiaceri, sa, come noi del resto. Non ho mai visto niente di più triste del funerale di un negro. Gridano e si comportano come se qualcuno gli stesse strappando il cuore dal petto. Secondo me il dolore colpisce loro molto peggio di noi. Ci vollero 3 uomini per tenere Onsel quando Willy Boy venne sepolto. Era come pazza e cercò di calarsi nella tomba con lui. Giuro che finché vivo non andrò mai più a uno dei loro funerali. Lo so che ci sono il bene e il male in ogni cosa, disse Evelyn, ma non posso fare a meno di invidiarli. Vorrei essere libera e aperta come loro. Non so che cosa dirle, commentò la signora Threadgood. A me basterebbe avere un barbecue e una fetta di torta al limone e sarei la donna più felice del mondo. Whistle Stop, Alabama, 15 ottobre 1949. Naughty Bird Peavy aveva 16 anni quando posò per la prima volta gli occhi su Leroy Grooms. Capì immediatamente che era l'uomo della sua vita e glielo disse. Lui faceva il cuoco sul Crescent che passava da Whistle Stop diretto a New York via Atlanta. Un anno più tardi nacque una bambina e Leroy la volle chiamare Almondine, dal piatto a base di trota che compariva sul menù della carrozza ristorante. Leroy era un ragazzo bello e gioviale che viaggiava molto e si fermava spesso lungo la strada. Quando Naughty Bird scoprì che a New Orleans alloggiava a casa di una meticcia quasi bianca, per poco non ne morì. Era in questo stato di disperazione quando lesse gli annunci sullo Slagtown. Pelle troppo scura? Volete avere una carnagione che affascina? Provate lo sbiancante per la pelle del dottor Fred Palmer. La pelle chiara è tutta da baciare. Agli uomini piace la pelle chiara e liscia. Usate l'unguento del successo per avere una pelle più bella e chiara in 5 giorni. La bellezza inizia da un viso chiaro. Valorizzate la vostra bellezza naturale con la crema specifica per il viso white, schiarente. Capelli troppo crespi? La scienza moderna è in grado di correggere i capelli crespi. Avrete capelli stupendamente lisci e setosi con Black and White, la lozione miracolosa. Provate Relaxa, capelli lisci in 7 giorni. Addio ai capelli crespi. Se i vostri capelli sono corti e crespi, usate da oggi stesso Anticrespo. I vostri capelli diverranno temporaneamente lisci. Naughty Bird li provò tutti, e altri ancora, ma dopo un mese era ancora l'aiuto parrucchiera crespa e nera come il carbone di Whistle Stop, e Leroy era rimasto a New Orleans con la sua meticcia dalla pelle dorata. Così lei portò la bambina a Sipsi, se ne tornò a casa da sola, si mise a letto e decise di lasciarsi morire d'amore. Nessuno riuscì a fare nulla per lei. Opal andò a trovarla e la supplicò di tornare al lavoro al salone di bellezza. Ma Naughty Bird rimaneva a letto, bevendo gin scadente e ascoltando sempre la stessa canzone. Sipsi dichiarò che sarebbe stato meglio se Leroy fosse morto, invece di andare a vivere con un'altra donna, perché dopo aver bevuto gin per 2 mesi la ragazza ancora non si era consolata. Fortunatamente le parole di Sipsi si rivelarono profetiche, perché Leroy Grooms, colpito con forza alla tempia da un camion giocattolo di metallo appartenente ai figli della meticcia, lasciò all'improvviso questo mondo. Quando Naughty Bird ricevette la tragica notizia, si alzò dal letto, andò in bagno e si lavò il viso. Poi scese in cucina e si preparò un piatto di uova, prosciutto, ciccioli e fagioli, che completò con biscotti spalmati di burro e sciroppo e 3 tazze di caffè fumante. Si fece un bagno, si vestì, spalmò della brillantina sui capelli, andò davanti allo specchio per applicare 3 strati di rossetto arancione e farda dello stesso colore, quindi uscì dalla porta e andò a Birmingham a caccia. Una settimana dopo tornava con un giovanotto dall'aria meravigliata, con un cappello di feltro con la piuma e un completo di gabardine marrone. Chiesa Battista Martin Luther King, Birmingham, Alabama, 21 settembre 1986. Evelyn aveva promesso alla signora Threadgood che avrebbe confidato i propri problemi a Dio e gli avrebbe chiesto di aiutarla a superare quel brutto periodo. Sfortunatamente non sapeva dove trovarlo, Dio. Ed e lei non andavano in chiesa da quando i ragazzi erano cresciuti, ma quel giorno aveva un disperato bisogno di aiuto, di qualcosa a cui aggrapparsi. Così si vestì e andò alla chiesa presbiteriana di Highland Avenue, della quale erano stati membri. Ma quando vi fu giunta, per qualche motivo non fermò la macchina e all'improvviso si ritrovò dall'altra parte della città, seduta nel parcheggio della chiesa battista Martin Luther King, la più numerosa congregazione di fedeli di colore di Birmingham, chiedendosi che cosa diavolo stesse facendo lì. Forse aveva sentito parlare troppo di Sipsi e Onsel, chi poteva dirlo? Si era sempre considerata una donna liberale, non aveva mai usato la parola negro in senso spregiativo, ma i suoi contatti con la gente di colore non si erano spinti più in là di quelli della maggioranza della classe media bianca, prima degli anni 60. Cioè aveva conosciuto qualche donna di servizio in casa di amici. Da bambina ogni tanto aveva accompagnato il padre quando riportava a casa nella zona sud della città la loro cameriera di colore. Era un tragitto di soli 10 minuti, ma sembrava di andare in un altro paese. La musica, i vestiti, le case, era tutto così diverso. A Pasqua andavano nei quartieri della gente di colore solo per vedere i loro abiti nuovi, rosa, porpora e gialli con cappelli piumati in tinta. Naturalmente erano le donne di colore a lavorare nelle case. Ogni volta che un negro percorreva la loro strada, sua madre diventava isterica e le gridava di correre a coprirsi perché c'è un uomo di colore che sta passando di qui. Ancora oggi Evelyn non si sentiva proprio agio quando c'erano dei negri nei paraggi. Per il resto, l'atteggiamento dei suoi genitori nei riguardi dei negri era stato il più diffuso all'epoca. Li trovavano divertenti, dei bambini cresciuti di cui prendersi cura. Tutti avevano una storiella da raccontare a proposito di quello che la cameriera aveva detto o fatto, oppure scuotevano la testa divertiti all'idea di quanto fosse prolifica la razza scura. Molti donavano loro gli abiti smessi o gli avanzi dei pasti e li aiutavano se finivano nei guai. Tuttavia, crescendo, Evelyn aveva smesso di andare nei loro quartieri e aveva pensato sempre di meno a loro, presa com'era dalla propria esistenza. Così, negli anni 60, quando avevano avuto inizio le rivolte, anche lei, come la maggioranza dei bianchi di Birmingham, era rimasta scioccata e tutti erano concordi nell'affermare che non era la nostra gente di colore a causare i problemi, ma degli agitatori esterni inviati dal nord. Sembrava scontato che la nostra gente di colore fosse contenta di ciò che aveva. Anni più tardi Evelyn si era chiesta come aveva fatto a non rendersi conto di quello che stava accadendo dall'altra parte della città. Birmingham venne diffamata dalla stampa e dalla televisione, con grande scandalo dei residenti bianchi. Non uno delle migliaia di gesti di amicizia intercorsi tra le due razze venne mai menzionato dai media. Tuttavia, 25 anni più tardi, Birmingham aveva un sindaco negro e nel 1975 la città, un tempo conosciuta come la città dell'odio e della paura, veniva definita dalla rivista Look la più americana d'America. Si diceva che i contrasti fossero appianati e che i negri emigrati al nord stessero tornando a uno e che tutti quanti avessero fatto carriera. Evelyn era conscia di questi mutamenti, eppure, mentre stava seduta in quel parcheggio, non poté fare a meno di stupirsi delle Cadillac e della Mercedes posteggiate intorno a lei. Aveva sentito che a Birmingham vivevano negri molto ricchi, ma non li aveva mai visti prima di allora. Mentre osservava radunarsi i membri della congregazione, venne assalita all'improvviso dall'antica paura dell'uomo nero. Controllò che tutte le portiere fossero chiuse e stava per ripartire quando un padre, una madre e due figli le passarono accanto ridendo. Questo la riportò bruscamente alla realtà e la tranquillizzò. Dopo qualche minuto raccolse tutto il proprio coraggio ed entrò in chiesa. L'usciere con il garofano all'occhiello le sorrise, le augurò il buongiorno e l'aiutò a trovare un posto a sedere. Ma lei si sentiva ancora molto nervosa. Il cuore le batteva forte e sentiva tremare le ginocchia. Aveva sperato di sedersi in fondo, ma l'usciere l'aveva accompagnata in una delle panche centrali. Evelyn cominciò a sudare freddo. Erano in pochi a farle caso. Due bambini si voltarono e cominciarono a fissarla. Lei sorrise, ma loro non contraccambiarono. Aveva deciso di andarsene quando un uomo e una donna le si sedettero di fianco, chiudendola nel mezzo. E così adesso era prigioniera, come sempre, solo che questa volta era circondata unicamente da negri. A un tratto si sentì come il ventre di un serpente, uno gnocco bollito, una pagina rimasta bianca in un libro da colorare, un fiore pallido in un roseto. La donna che le sedeva vicino era di una bellezza incredibile e vestita come Evelyn aveva visto solo sulle riviste di moda. Nel suo completo di seta grigio perla, con scarpe e borsetta di serpente, sembrava una modella appena giunta da New York. Guardandosi attorno, Evelyn si rese conto di non avere mai visto tutte in una volta tante persone così eleganti. Gli uomini la mettevano ancora a disagio con quei pantaloni troppo aderenti, così si concentrò sulle donne. Ma non le aveva forse sempre ammirate per la loro forza e la loro umanità? E si era chiesta come potessero amare e allevare i bambini dei bianchi e curare i loro vecchi con tanta abnegazione. Lei stessa non ci sarebbe riuscita. Li vide salutarsi l'un l'altro, tutti perfettamente a loro agio e sereni. Li osservò muoversi con la grazia naturale di cui persino i più corpulenti erano dotati. Non avrebbe mai fatto nulla per provocare la loro collera, ma le sarebbe piaciuto sentire qualcuno dare della vacca a una di loro. Si rese conto in quel momento che per tutta la vita aveva guardato i negri senza realmente vederli. Quelle donne erano belle come regine egiziane, con gli zigomi alti e il petto florido. Provò a immaginare tutti quelli che in passato avevano cercato di passare per bianchi. Ora dovevano rivoltarsi dal ridere nella tomba al vedere i cantanti bianchi sforzarsi di sembrare negri e le ragazze bianche che si facevano le treccine come le donne giamaicane. La situazione si era capovolta. Evelyn cominciò a rilassarsi e a sentirsi più a proprio agio. Si era aspettata che l'interno della chiesa fosse molto diverso, invece era identico alle dozzine di chiese frequentate dai bianchi sparse in tutta la città. Poi, di colpo, l'organo attaccò a suonare e i 250 membri del coro, vestiti di rosso e marrone, si alzarono per cantare con una forza e una potenza da lasciare sbalorditi. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. Quando si furono di nuovo seduti, il reverendo Porter, un uomo imponente con una voce che riempiva tutta la chiesa, si alzò dalla sua sedia e attaccò il sermone che aveva per tema la gioia di amare Dio. E credeva in quello che diceva. Persino Evelyn se ne accorse. Mentre parlava, gettava indietro la testa e rideva di felicità. La congregazione e l'organo che lo accompagnavano gli rispondevano come una sola voce. Si era sbagliata, questa chiesa non era come quelle dei bianchi e di certo quel sermone non assomigliava ai discorsi asciutti e privi di emozioni che era abituata ad ascoltare. L'entusiasmo del reverendo per il Signore era contagioso e infiammò tutto il pubblico. Lui assicurò con incontestabile autorità che il suo Dio non era un Dio della vendetta, ma un Dio della bontà, dell'amore, del perdono e soprattutto della gioia. E cominciò a danzare, a gonfiarsi, a cantare il suo sermone alle travi del soffitto, con il sudore che gli imperlava il viso e che ogni tanto asciugava con il fazzoletto bianco che stringeva nella destra. La congregazione rispondeva a ogni sua frase. Non si può avere la felicità se non si ama il prossimo. È giusto! Amate il vostro nemico! Lo ameremo! Dimenticate i vostri vecchi rancori! Li dimenticheremo! Scuotetevi di dosso il demone dell'invidia! Lo scacceremo! Quando ebbe finito, l'intera chiesa esplose in amen e alleluia assordanti e il coro riattaccò a cantare, seguito da tutta la congregazione. Evelyn non era mai stata religiosa, ma quel giorno si sentì sollevare dalla panca e fluttuare al di sopra di tutte le paure che l'avevano sempre tenuta ancorata al suolo. Sentì il proprio cuore aprirsi e colmarsi di meraviglia al semplice pensiero di essere viva. Le sembrò di volare fino all'altare, dove un Gesù bianco, pallido e smagrito, con il capo circondato da una corona di spine, la guardava dal crocifisso dicendo: "Perdonali, figlia mia, perché non sanno quello che fanno." La signora Threadgood aveva ragione. Aveva portato i suoi cruci al Signore e lui se n'era fatto carico. Evelyn trasse un profondo sospiro e il pesante fardello di odio e risentimento che finora aveva gravato su di lei si levò con aria dissolvendosi. E con esso Towanda. Era libera. In quel momento perdonò il ragazzo del supermercato, il medico di sua madre e le ragazze nel parcheggio e perdonò anche se stessa. Era libera, libera, come le persone riunite in quella chiesa che, nonostante le sofferenze e i patimenti, non avevano permesso all'odio e alla paura di uccidere l'amore che albergava in loro. A questo punto il reverendo Porter chiese ai fedeli di stringere la mano ai vicini. La bellezza nera, seduta accanto a Evelyn, le strinse la mano e le disse: "Che Dio ti benedica." Anche Evelyn le strinse la mano. "Grazie," rispose. "Grazie mille." Prima di uscire si fermò sulla porta per guardare indietro un'ultima volta. Forse era venuta nella speranza di scoprire che cosa si provasse a essere negri. Ora aveva capito che non l'avrebbe mai saputo. Esattamente come quei negri non avrebbero mai potuto sapere che cosa significasse essere bianchi. Quindi non sarebbe mai più tornata. Quella chiesa apparteneva a loro, ma per la prima volta in vita sua aveva provato la felicità. Era stata la stessa gioia che aveva visto negli occhi della signora Threadgood, ma al momento non l'aveva riconosciuta. Sapeva che l'esperienza non si sarebbe mai più ripetuta, ma l'aveva vissuta una volta e non avrebbe mai più dimenticato quella sensazione finché fosse vissuta. Sarebbe stato bello poter dire a tutti quanti in quella chiesa quanto fosse stato importante per lei quel giorno. Sarebbe stato splendido, anche se Evelyn avesse potuto sapere che la donna con cui aveva scambiato la stretta di mano, altri non era che la figlia maggiore di Jasper Peavy, impiegato delle ferrovie, che aveva fatto carriera. Il giornale della signora Weems, bollettino settimanale di Whistle Stop, Alabama, 27 agosto 1955. Chiude lo scalo ferroviario. Siamo tutti rattristati dalla notizia che il nostro scalo ferroviario chiuderà. Ora che abbiamo perduto quasi tutti i nostri treni, perderemo anche buona parte dei nostri amici, che verranno trasferiti in altre città. Ci resta solo da sperare che i treni tornino di moda. Whistle Stop non sembrerà più la stessa con questo traffico ferroviario ridotto. Grady Kilgore, funzionario in pensione della LNN, dice che il paese non può tirare avanti senza treni e che presto il governo se ne renderà conto. Secondo me, molto presto la LNN tornerà in sé e ci restituirà i nostri treni. Prima la Georgia Pacific Seaboard e adesso la LNN. Solo la Southern Railroad resiste. È come se nessuno volesse più noi poveri passeggeri. Forse chiuderà anche il caffè. Igi dice che gli affari vanno male. Per finire, la mia dolce metà afferma di soffrire da almeno 10 giorni di polmonite degli 8 giorni. Ah, gli uomini. Dot Wims. Carrozza Pullman numero 16 dalle parti di Roanoke, Virginia, 23 dicembre 1958. Jasper Peavy rimase sveglio tutta la notte mentre il treno scivolava attraverso il paesaggio ricoperto di neve e la luna scintillava sui campi ammantati di bianco. L'aria era gelida fuori dal finestrino, ma piacevolmente tiepida all'interno della carrozza. Era in quei momenti che si sentiva più sicuro e felice. Non avrebbe più dovuto sorridere per quel giorno. Si sarebbe goduto il silenzio. Le luci rosse e verdi dei semafori, dei passaggi a livello, si alternavano lungo il percorso e verso l'alba, a una, cominciarono ad accendersi le luci delle piccole città. Mancava un mese alla pensione. Jasper era venuto a Birmingham un anno dopo suo fratello Artis, e benché fossero gemelli e tutti e due negri per la legge, avevano vissuto due esistenze completamente diverse. Jasper aveva voluto bene a suo fratello, ma lo aveva completamente perso di vista. Artis aveva subito trovato il suo posto nella Quarta Avenue Nord, dove il jazz imperversava e i dadi rotolavano notte e giorno. Jasper era andato ad abitare in una missione cristiana, 4 isolati più in là, e aveva frequentato la chiesa battista della sedicesima strada fin dalla sua prima domenica a Birmingham. Era lì che Blanche Maybury lo aveva notato per la prima volta, per via della sua pelle chiara e delle lentiggini. Blanche era figlia unica di Chas Maybury, un cittadino rispettato, un famoso educatore e direttore del liceo della gente di colore. Era stato grazie a lei che Jasper era stato automaticamente ammesso nella cerchia esclusiva della classe medio-alta del quartiere. Quando si erano sposati, se il padre di Blanche era rimasto deluso dalla mancanza di istruzione e dal passato del genere, il colore della sua pelle e i suoi modi erano bastati a consolarlo. Dopo il matrimonio, Jasper si era messo a lavorare sodo. Mentre Artis spendeva tutto il suo denaro in donne e vestiti, lui si accontentava dei dormitori freddi e infestati dai topi che la compagnia metteva a disposizione degli impiegati quando si trovavano fuori città. Aveva risparmiato fino a potersi permettere addirittura di comprare un pianoforte. Averne uno in casa aveva la sua importanza. Da quel momento Jasper aveva cominciato a devolvere il 10% alla chiesa e a mettere da parte il denaro per pagare gli studi delle figlie fino all'università. Non aveva mai toccato una goccia di whisky, non aveva mai chiesto un prestito, neppure un dollaro, e non aveva mai fatto un debito. Uno dei primi negri della città si era ben presto trasferito nel quartiere bianco di Enon Ridge, più tardi conosciuto come Dynamite Hill. Quando il Ku Klux Klan aveva fatto saltare la sua casa, insieme con quelle di alcuni vicini, diversi se n'erano andati, ma lui era rimasto. Aveva sopportato anni di insulti e nomignoli spregiativi, aveva svuotato le sputacchiere, aveva pulito i bagni, lustrato le scarpe e sollevato talmente tanti bagagli da non riuscire a dormire per il dolore alla schiena e alle spalle. E spesso aveva pianto di umiliazione, quando sul treno avveniva un furto e i funzionari delle ferrovie cercavano per prima cosa negli armadietti degli impiegati di colore. Era stato ossequioso, aveva sorriso e servito liquori e piazzisti nel bel mezzo della notte. Era stato insultato da arroganti donne bianche, chiamato negro dai bambini e si era visto trattare come spazzatura da qualche capotreno bianco. Senza contare le mance che gli erano state rubate dai colleghi. Aveva pulito con le proprie mani dopo che qualche passeggero si era sentito male di stomaco e centinaia di volte era passato attraverso la contea di Cullman con il cartello che diceva: «Negro, non lasceremo che il sole tramonti sulla tua testa». Aveva patito tutto questo. Però la sua famiglia godeva di un'assicurazione. Tutte e quattro le sue figlie erano state all'università e nessuno avrebbe mai dovuto vivere delle mance dei bianchi. Era stato questo a dargli la forza di tirare avanti in quegli anni impossibili. Questo e i treni. Se suo fratello Artis si era innamorato di una città, Jasper si era innamorato dei treni. I treni con le loro carrozze nere e lustre foderate di mogano e i sedili di velluto rosso. I treni con la poesia dei loro nomi. Il tramonto del nord, la palma del sud, città di New Orleans, la freccia del sud, la saetta di fuoco, il crepuscolo, il palmetto, il diamante nero, la bella del sud, la stella d'argento. E quella sera era a bordo del Cometa d'argento, snello e aerodinamico come un missile. Andava da New Orleans a New York e ritorno. Era uno degli ultimi treni leggendari ancora in funzione. Aveva pianto per ciascuno di quei magnifici treni quando a uno erano stati smantellati e lasciati ad arrugginire in qualche scalo come vecchi aristocratici decaduti, antiche reliquie del tempo trascorso. Quella sera si sentiva proprio come uno di quei vecchi treni fuori moda, superato, inutile. Il giorno prima aveva sentito il nipote Mohammed Abdul Pivi dire a sua madre che non voleva andare da alcuna parte con il nonno perché lo mettevano in imbarazzo il modo in cui si inchinava e si umiliava davanti ai bianchi e l'atteggiamento che assumeva in chiesa, insistendo per cantare i suoi inni a ritmo sincopato. Jasper aveva capito che il suo tempo era finito, proprio come era accaduto ai suoi vecchi amici che arrugginivano negli scali ferroviari. Era un peccato perché aveva vissuto nell'unico modo che gli era sembrato possibile, ma aveva vissuto e non si sentiva un fallito. Hotel St. Clair, moderno hotel di Birmingham, Alabama, 23 dicembre 1965. Smokey stava dall'altra parte della strada rispetto alla stazione centrale della LNN, in una stanza d'albergo che poteva essere stata moderna 35 anni prima, ma ora era occupata soltanto da un letto, una seggiola e una lampadina da 40 watt appesa a un filo. Nella stanza regnava l'oscurità più assoluta, tranne per la pallida luce giallognola che filtrava attraverso la mezzaluna di vetro sopra la porta smaltata. Smokey sedeva solo, fumando la sua sigaretta e guardando fuori dalla finestra nella strada fredda e bagnata. Pensava al tempo lontano in cui il cielo era punteggiato da miriadi di stelle, e tutti i fiumi e tutti i whisky che gli erano sembrati dolci. Al tempo, insomma, in cui poteva respirare una boccata di aria fresca senza scatenare un eccesso di tosse, quando Iggy, Ruth e Sipsi vivevano ancora nel retro del caffè e i treni non la smettevano mai di passare. Era un'epoca speciale, remota, ma nella sua mente distava solo pochi passi. I ricordi erano ancora freschi e quella sera lui li accarezzò a uno, come faceva spesso, cercando di afferrare i raggi della luna. Ogni tanto riusciva ad acchiapparne uno e a cavalcarlo come in un incantesimo. In testa gli ronzava un vecchio motivo. Anelli di fumo, dove se ne andranno? Anelli di fumo d'argento, cerchi azzurri che mi fanno sognare di te. Casa di riposo Ross Terrace, Birmingham, Alabama, 22 settembre 1986. Quando Evelyn Couch entrò nel salottino, la signora Threadgood dormiva e una volta tanto dimostrava tutta la sua età. Evelyn si rese conto di quanto fosse vecchia la sua amica e questo la spaventò. Le posò una mano sulla spalla e la scosse. «Signora Threadgood?» L'altra aprì gli occhi e si passò una mano tra i capelli. Subito cominciò a parlare. «Oh, Evelyn, è qui da molto?» «No, sono appena arrivata. Non mi lasci dormire nei giorni di visita, me lo promette?» Evelyn si sedette e le porse un piatto di carta con un panino imbottito di carne e una fetta di torta al limone, una forchetta e un tovagliolo. «Oh, Evelyn!» esclamò la signora Threadgood, mettendosi a sedere più diritta. «Dove li ha presi, al caffè?» «No, li ho preparati apposta per lei. Davvero, che gentilezza!» Evelyn aveva notato negli ultimi 2 mesi che la sua amica confondeva sempre più spesso passato e presente e a volte la chiamava addirittura Cleo. All'inizio aveva dovuto compiere uno sforzo su se stessa per non scoppiarle a ridere in faccia, ma ultimamente trovava la cosa sempre meno spassosa. «Deve scusarmi se mi sono addormentata così, ma non succede solo a me, siamo tutti molto stanchi qua dentro.» «Come mai non riuscite a dormire la notte?» «Tesoro, sono settimane che nessuno riesce a chiudere occhio. Vesta Adcock ha preso la cattiva abitudine di fare telefonate notturne. Chiama tutti, dal presidente al sindaco. Una volta ha telefonato alla regina d'Inghilterra per lamentarsi di non so che cosa. Ulula come una gatta in amore e non si calma fino al mattino.» «Provi a chiudere la porta.» «La chiudo, la chiudo.» «E allora perché non le portano via il telefono?» «L'hanno fatto, ma lei non se ne è accorta e così continua a telefonare.» «Mio Dio, ma è impazzita!» Mettiamola così, disse la signora Threadgood. È di questo mondo, ma ha smesso di abitarvi da un pezzo. Sì, ha ragione. Tesoro, mi piacerebbe qualcosa di fresco insieme alla torta. Potrebbe andarmi a prendere una bibita? Ci andrei io stessa, ma la mia vista non è più quella di una volta e non riesco a trovare la fessura per la moneta. Ma certo, anzi, mi scusi, avrei dovuto chiederglielo. Ecco il mio nichelino. Oh, signora Threadgood, non sia sciocca. Gliela offro io la bibita. Niente affatto, Evelyn. Prenda subito questo denaro. Non voglio che spenda i suoi spiccioli per me. Se non me la lascia pagare, non la berrò. Evelyn prese la moneta e la utilizzò per comprare la bibita. Grazie, tesoro. Evelyn, le ho mai detto quanto odio i cavolini di Bruxelles? No, perché non le piacciono? Chi lo sa? Li trovo disgustosi e basta. Ma sono ghiottissima di tutte le altre verdure. Non mi piacciono surgelate, però, e nemmeno in scatola. Le mangio solo fresche, sa? Le mie preferite sono il gran turco, i fagioli di Lima, quelli dell'occhio e i pomodori verdi fritti. Sapeva che il pomodoro è un frutto? Davvero? Si meravigliò la signora Threadgood. Proprio così. La signora Threadgood parve molto colpita dalla notizia. Oh no! È tutta la vita che mangio i pomodori come verdura conditi con l'olio e il sale. Davvero sono frutti? Eh sì. Ne è sicura. Sicurissima, me l'hanno insegnato a scuola durante l'ora di economia domestica. Non riesco a crederlo. Sa che cosa farò? Fingerò che lei non me l'abbia mai detto. I cavolini di Bruxelles sono ortaggi, vero? Quelli sì. Mi sento già meglio. E i fagioli nani? Non mi dirà che sono frutti anche quelli? No, quelli sono legumi. Meglio così. La signora Threadgood mangiò l'ultimo boccone di torta, ricordando qualcosa, sorrise. Sa, Evelyn, questa notte ho fatto un sogno magnifico. Sembrava così vero. Ho sognato che mamma e papà Threadgood erano in piedi sotto il portico della vecchia casa e mi facevano segno di avvicinarmi, e dopo un momento Cleo, Albert e tutti i Threadgood uscivano e mi chiamavano a gran voce. Avrei voluto raggiungerli, ma non potevo. Così ho detto loro di avere pazienza, perché dovevo aspettare che la signora Otis migliorasse, e la mamma, con la sua vocetta, mi ha detto non tardare però, Ninni, perché stiamo aspettando solo te. La signora Threadgood guardò Evelyn. A volte non vedo l'ora di andare in paradiso. Ne ho proprio voglia, sa? La prima cosa che farò sarà cercare il vecchio Bill Ferrovia. Non riuscirono mai a scoprire chi fosse. Naturalmente era un uomo di colore, ma sono sicura che è in paradiso insieme con tutti gli altri. Non lo crede anche lei, Evelyn? Ne sono certissima. Se c'è qualcuno che merita di essere in paradiso è lui. Spero solo di riconoscerlo quando lo vedrò. Caffè di Whistlestop, Alabama. 3 febbraio 1939. La sala era gremita di ferrovieri all'ora di pranzo. Così Grady Kilgore andò ad affacciarsi alla porta della cucina e gridò: «Preparami un piatto di pomodori verdi fritti e del tè freddo. Ti dispiace, Sipsy? Vado di fretta!» Sipsy gli riempì un piatto e lui tornò nella sala per cercarsi un posto a sedere. Era il quindicesimo inverno filato che Bill Ferrovia depredava i treni. Quando Kilgore gli passò accanto, Charlie Fowler, un ingegnere della Southern Railroad, disse: «Ehi, Grady, ho sentito che stanotte il vecchio Bill Ferrovia ha svuotato un altro treno. Quando è che avete intenzione di acciuffarlo?» Tutti gli uomini risero mentre Grady si sedeva al banco a mangiare. «Potete ridere fino a crepare, ma io non ci trovo nulla di divertente. In 2 settimane quel figlio di buona donna ha già saccheggiato 5 treni.» Jack Butts ridacchiò. «Quel negro vi fa ballare la rumba, eh?» Wilbur Wims, seduto accanto a lui, sorrise e masticò uno stuzzicadenti. «Ho sentito che ha gettato un intero carico di prodotti in scatola, tra cui Aniston, e i negri se ne sono impossessati prima dell'alba.» «Fosse tutto qui», si lagnò Grady. «Quel bastardo ha buttato giù dal treno in pieno giorno 17 prosciutti di proprietà del governo degli Stati Uniti.» Sipsi rise e gli posò davanti il bicchiere di tè freddo. Grady vi mise 2 cucchiai di zucchero. «Non c'è niente da ridere, Sipsi. Hanno mandato un ispettore del governo da Chicago. Devo andarlo a prendere adesso a Birmingham e dire che abbiamo già piazzato 6 uomini di guardia allo scalo. Quel maledetto finirà per farmi perdere il posto. Nessuno ha ancora capito come faccia a salire sui vagoni e come riconosca quelli che trasportano cibo», osservò Jack, «e neppure come riesca a scendere prima che lo becchino.» «Grady», interloquì Wilbur, «dicono che non siete mai neanche stati vicini all'arresto.» «Non è vero. Art Bevins per poco non l'ha catturato l'altra notte, fuori da Gate City. L'ha mancato per 2 minuti, quindi i suoi giorni sono contati. Vedrete se non è la verità.» Gli passò accanto Iggy. «Ehi, Grady, posso mandare Stampa allo scalo ad aiutarvi? Magari lui riuscirà a prenderlo.» «Chiudi il becco, Iggy», le intimò Grady, «e portami ancora un po' di pomodori, per favore», aggiunse porgendole il piatto. Ruth, dietro il banco, stava dando il resto a Wilbur. Secondo me non fa nulla di male, dichiarò. Quella povera gente è affamata e se non fosse per il carbone che Bill Ferrovia butta giù dai treni, molti di loro sarebbero già morti congelati. In un certo senso sono d'accordo con te, Ruth. Qualche lattina di cibo e qualche palata di carbone non possono certo impoverire il governo. Ma la cosa ci sta sfuggendo di mano. Finora la compagnia ha già piazzato 12 uomini, tra cui il confine di Stato, e io faccio il doppio turno di notte. Smokey Lonesome era seduto in fondo al banco davanti a una tazza di caffè. 12 uomini per catturare un povero negro, si meravigliò. È come sparare a una mosca con un cannone. Su con il morale, disse Iggy posando la mano sulla spalla di Grady. Sipsi mi ha detto che non riuscite ad acciuffarlo perché è capace di trasformarsi in una volpe o in un coniglio tutte le volte che gli arrivate vicino. Tu che cosa ne pensi? Secondo te è vero, Grady? Wilbur volle sapere a quanto ammontava la taglia. Fino a stamattina a $250, rispose Grady, ma probabilmente arriverà a 500 prima che questa storia finisca. Wilbur scosse la testa. Sono un mucchio di quattrini. Che aspetto dovrebbe avere questo negro? Secondo quelli che l'hanno visto è soltanto un vecchio con un berretto di lana in testa. E furbo, aggiungerei, disse Smokey. Può darsi, ma quando lo prenderemo diventerà un negro pentito di essere nato. Sono settimane che non passo la notte nel mio letto. Da quanto ho sentito in giro, Grady, disse Wilbur, non è una novità. Tutti quanti risero. E quando Jack Patz, anche lui membro del club dei cetrioli sott'aceto, calcò la mano dicendo: Già, deve essere proprio una seccatura. Corre voce che anche Eva Bates si stia lamentando. Tutta la sala esplose in una risata assordante. Dovresti vergognarti di te stesso, Jack. Lo rimproverò Charlie. Non è giusto insultare così la povera Eva. Grady si alzò e si guardò attorno. Sapete una cosa? Siete ignoranti come capre, ignoranti. Ecco che cosa siete. Andò alla rastrelliera, prese il cappello e li fronteggiò di nuovo. Questo posto si dovrebbe chiamare Caffè degli Ignoranti. Credo che d'ora in poi mangerò da qualche altra parte. Risero tutti di quella battuta, Grady compreso, perché non c'era un altro posto dove mangiare a Whistle Stop. Lo sceriffo uscì dalla porta e partì per Birmingham. Atlanta, Georgia, 27 novembre 1986. Stump Threadgood, ancora un bell'uomo all'età di 57 anni, era a casa della figlia Norma per il pranzo del ringraziamento. Aveva appena finito di guardare la partita di football tra Alabama e Tennessee ed era seduto a tavola con il marito di Norma, Mackie, la loro figlia Linda e il suo ossuto fidanzato con gli occhiali che studiava per diventare chiropratico. Stavano bevendo il caffè e gustando la torta di noci. Stamp si rivolse al ragazzo. Aveva uno zio, Cleo, che faceva il chiropratico. Non ci ha mai guadagnato un centesimo perché curava tutti quanti gratis. Ma erano i tempi della depressione, nessuno avrebbe avuto i soldi per pagarlo. Mia madre e zia Igi gestivano un caffè. Era soltanto una baracca di legno di pino, ma ti dirò una cosa, abbiamo sempre mangiato, e così pure tutti quelli che venivano a chiedere cibo, bianchi e neri. Non ho mai visto zia Igi rifiutare un pasto a nessuno, e neppure un goccetto, se è per questo. Teneva una bottiglia nascosta nel grembiule e mia madre diceva: Igi in questo modo incoraggi le cattive abitudini delle persone. Ma zia Igi, che beveva anche lei, le rispondeva: Ruth, l'uomo non vive di solo pane. Venivano almeno 10 o 15 vagabondi ogni giorno, ma non avevano paura di lavorare un po' in cambio del cibo, non come i vagabondi di oggi, che preferiscono frugare nei bidoni della spazzatura o rubare. Zia Igi li faceva sempre lavorare un po', per non ferirli nell'orgoglio. Certe volte li faceva entrare nella stanza sul retro per sorvegliare me, e così dava loro l'illusione di lavorare. Erano quasi sempre brave persone, dei poveracci colpiti dalla sfortuna. Il migliore amico di zia Igi era un vecchio vagabondo di nome Smokey Lonesome. Non c'era persona più fidata al mondo, non ha mai preso nulla che non gli appartenesse. Sai, quei vagabondi avevano un loro codice d'onore. Smokey mi raccontò che una volta avevano sorpreso uno di loro a rubare argenterie in una casa. Lo avevano ammazzato sui due piedi e avevano riportato l'argenteria ai legittimi proprietari. A quei tempi non c'era bisogno di chiudere a chiave le porte. I barboni di adesso, soprattutto quelli che vivono nei vagoni ferroviari, sono tutt'altra razza di persone. Sono ladri e drogati, pronti a spogliarti nudo pur di rubarti qualche spicciolo. A casa nostra non è mai mancato nulla, scoppiò a ridere. Forse era merito anche della doppietta che zia Igi teneva vicino al letto. Era un tipo piuttosto deciso, non è così, Peggy? Altro che, gridò Peggy dalla cucina. Naturalmente faceva molta scena, ma sapeva renderti la vita un inferno se non le piacevi, eh? Aveva una guerra in corso con il vecchio predicatore della chiesa battista, dove la mamma insegnava il catechismo la domenica e gliene faceva di tutti i colori. Era un antialcolista e una domenica predicò contro la sua amica Eva Bates. Zia Igi non glielo perdonò mai, Ogni volta che uno straniero veniva in città e chiedeva di comprare del whisky, lei lo accompagnava fuori del caffè e gli indicava la casa del reverendo Scroggins, dicendo: «La vede quella casa verde laggiù? Deve soltanto bussare alla porta. Il proprietario distilla il miglior whisky dello Stato». E indicava la casa del reverendo Scroggins, anche a quelli che venivano a cercare qualcos'altro. Peggy uscì dalla cucina e si sedette al tavolo. «Non mi sembra il caso di raccontare certe cose, Stump!» Lui rise. Insomma, zia Iggy non lo lasciava mai in pace, quel povero reverendo. La divertiva a far credere alla gente di essere cattiva, ma dentro era soffice come zucchero filato, come quando il figlio del predicatore Bobby Lee venne arrestato. Fu lei che il ragazzo chiamò perché lo aiutasse. Era andato a Birmingham con due o tre amici, si era ubriacato e stava correndo su e giù per i corridoi in mutande, gettando palloncini dalla finestra del settimo piano. Solo che li aveva riempiti d'inchiostro e ne aveva lanciato uno in testa alla moglie di qualche consigliere municipale che stava entrando nell'albergo per un ricevimento. A zia Iggy costò $200 tirarlo fuori di prigione e altri 200 farlo scagionare, perché non avesse la fedina penale sporca e suo padre non lo venisse mai a sapere. L'accompagnai io a Birmingham a prendere il ragazzo e mentre tornavamo a casa lei gli disse che se avesse osato raccontare a qualcuno che lo aveva aiutato gli avrebbe staccato, prova a immaginare che cosa, con un colpo di pistola. Nessuno doveva sapere in giro che lei aveva compiuto una buona azione, soprattutto per il figlio del predicatore. E i suoi amici del club dei cetrioli sott'aceto erano tutti come lei, facevano un sacco di opere buone di cui nessuno sapeva nulla. Ma la parte migliore della storia è che il vecchio Bobby Lee divenne un famoso avvocato e finì addirittura procuratore generale per il governatore Folsom. Norma finì di sparecchiare a tavola. Raccontagli di Bill Ferrovia, papà. Linda lanciò alla madre uno sguardo esasperato. Bill Ferrovia? Davvero vuoi che ti racconti di lui? Il ragazzo, che in realtà avrebbe voluto portare Linda in macchina da qualche parte, rispose: Sì, signore, sarei felicissimo di sentire la sua storia. Mackie sorrise alla moglie. Avevano ascoltato quel racconto centinaia di volte e sapevano che Stump adorava ripeterlo. Accadde durante la depressione. Quest'uomo, chiamato Bill Ferrovia, montava di nascosto sui treni che rifornivano il governo e buttava giù viveri per la gente di colore, poi smontava prima che potessero acchiapparlo. Andò avanti per anni e ben presto i negri cominciarono a inventare leggende sul suo conto. Qualcuno diceva di averlo visto trasformarsi in una volpe e perfino percorrere 20 miglia di corsa camminando sul filo spinato. Chi l'aveva visto diceva che portava un lungo cappotto nero con un berretto anch'esso nero calcato sulla testa. Composero anche una canzone per lui e ogni domenica in chiesa pregavano perché il Signore lo conservasse libero in buona salute. La compagnia ferroviaria offrì una ricompensa a chiunque avesse aiutato a catturarlo, ma nessuno a Whistle Stop si sarebbe mai sognato di tradirlo, anche se avessero saputo chi era. Tutti quanti però tiravano a indovinare. Io mi ero ficcato in testa che Bill Ferrovia fosse Artis Pivi, il figlio della nostra cuoca. Sia la statura sia la furbizia corrispondevano. Lo seguii giorno e notte, ma non riuscii mai a sorprenderlo. Avevo 9 o 10 anni allora e avrei dato qualunque cosa pur di vedere Bill Ferrovia in azione, se non altro per essere sicuro che esistesse davvero. Poi una mattina, prima dell'alba, mi alzai per andare in bagno. Ero mezzo addormentato quando ci arrivai, ma ero occupato. C'erano la mamma e zia Iggy chiuse dentro con l'acqua che scorreva. Quando spinsi la porta, la mamma mi guardò stupita. Aspetta un momento, caro, mi disse e chiuse la porta. Sbrigati, mamma, non ce la faccio ad aspettare, risposi. Sai come succede ai ragazzi? Le sentii parlottare e poco dopo uscirono. Zia Iggy si stava lavando le mani e la faccia. Quando entrai, il lavandino era ancora sporco di polvere di carbone e sul pavimento dietro la porta c'era un berretto nero. In quel momento capii perché avevo visto tante volte zia Iggy confabulare con Grady Kilgore, l'ispettore della ferrovia. Era lui a indicarle su quali treni salire. Sì, era stata mia zia Iggy a rifornire in tutti quegli anni le case dei poveri negri. Sei sicuro che sia vero, nonno? Domandò Linda. Certamente, tua zia Iggy faceva le cose più pazze, si rivolse a Mackie. Ti ho mai raccontato che cosa fece quando Wilbur ed Ot Wims si sposarono e andarono in viaggio di nozze in un grande albergo di Birmingham? No, non mi sembra. Stampa, non dovresti dire certe cose davanti ai ragazzi, lo rimproverò Peggy. Non dirò nulla di scandaloso, non ti preoccupare. Il vecchio Wilbur era anche lui membro del club dei cetrioli sottaceto e subito dopo le nozze zia Iggy e gli altri soci salirono in macchina e andarono a Birmingham veloci come il vento. Arrivati in albergo pagarono il portiere perché li lasciasse entrare nella suite nuziale e misero sul letto certe cose strane. Dio sa che cosa. Stump! Lo interruppe la moglie. Lui scoppiò a ridere. Comunque risalirono in macchina e tornarono a casa, e quando Wilbur e Dot tornarono dal viaggio di nozze, loro domandarono a Wilbur come fossero le stanze a Redmond. Così scoprirono di essere stati nell'albergo sbagliato e di aver spaventato qualche altro malcapitato. Peggy scosse la testa. Si può essere tanto stupidi? Papà, gridò Norma dalla cucina, raccontagli dei pesci gatto che andavi a pescare sul fiume Warrior. Il viso di Stump si illuminò. Erano pesci enormi. Un giorno, mentre pioveva, uno abboccò e si mise a tirare la lenza con tanta energia che mi trascinò giù, per l'argine, e dovetti lottare per non finire in acqua. C'erano lampi e tuoni e io per poco non morii annegato. Ma dopo almeno 4 ore riuscii a estrarre dall'acqua il pesce e pesava almeno 10 chili, se non di più. Era lungo così. Stump tese il suo unico braccio. L'ossuto aspirante chiropratico rimase seduto con uno sguardo idiota sul viso, cercando di pensare quanto lungo potesse essere stato quel pesce. Linda, esasperata, si posò le mani sui fianchi. Oh, nonno! Dalla cucina giunse loro la risata di Norma. Casa di riposo, Rose Terrace, Birmingham, Alabama, 28 settembre 1986. Quel giorno Evelyn aveva portato un assortimento di provviste, bibite, patatine. E come dessert, su richiesta della signora Threadgood, fichi secchi. La signora Threadgood spiegò a Evelyn che la sua amica, signora Otis, da 30 anni mangiava 3 fichi secchi al giorno per mantenersi in forma. Io personalmente li mangio perché mi piace il loro sapore, ma le dirò un'altra cosa. Quando abitavo a casa e non avevo voglia di cucinare, andavo al negozio di Ousie, compravo una confezione di pane da scaldare nel forno, ci spalmavo sopra un po' di sciroppo allo zucchero e cenavo così. Non costa molto, dovrebbe provare qualche volta. Lo sa che cosa è veramente buono, signora Threadgood? Quei panini al miele surgelati. Panini al miele? Sì, assomigliano a quelli alla cannella, non so se li conosce. Ah, certo, e ne sono golosissima. Perché qualche volta non ne facciamo una bella scorpacciata? D'accordo. Sa, Evelyn, sono così felice che lei non sia più a dieta. Quel cibo crudo stava per ucciderla. Io non gliel'ho mai voluto dire prima, ma la signora Adcock per poco non ci ha rimesso le penne con una di quelle diete dimagranti. Mangiava così tante verdure crude che venne ricoverata in ospedale con dei forti dolori allo stomaco e dovettero aprirla per vedere che male avesse. Lei racconta sempre che mentre le esaminava le budella, il chirurgo le prese in mano il fegato per guardarlo da vicino e quello gli scivolò sul pavimento. Rimbalzò 4 o 5 volte prima che riuscissero ad acchiapparlo. La signora Adcock dice che da allora soffre di terribili mal di schiena. Oh, non ci crederà davvero, signora Threadgood. L'ha detto l'altra sera a tavola. Se l'è inventato. Il fegato è attaccato al corpo. Ah, oh, magari si è confusa ed era un rene o qualcos'altro, ma se fossi lei la smetterei di mangiare cibi crudi. Seguirò il suo consiglio, signora Threadgood. Evelyn si infilò in bocca una patatina. C'è una cosa che volevo chiederle. Una volta mi ha detto che Iggy, a sentire certa gente, aveva ucciso un uomo. O me lo sono sognato? Oh no, erano in molti a esserne convinti e lo furono anche di più quando lei venne processata per omicidio in Georgia con Big George. Evelyn era scioccata. Venne processata? Non gliel'ho mai raccontato? No, mai. Fu terribile. Ricordo ancora quella mattina. Stavo lavando i piatti e ascoltando la radio quando Grady Kilgore venne a casa in cerca di Cleo. Sembrava che fosse morto qualcuno. Cleo, gli disse, preferirei tagliarmi il braccio piuttosto che fare quello che sto per fare. Ma devo restare Iggy e Big George e voglio che tu mi accompagni. Iggy era una delle sue migliori amiche e per lui fu un compito estremamente penoso. Disse a Cleo che aveva pensato di darle dimissioni, ma che in questo caso sarebbe stato uno sconosciuto ad arrestare Iggy e allora sarebbe stato anche peggio. Cleo ne fu sconvolto. Ma che cosa ha fatto? Gli domandò. Grady spiegò che lei e Big George erano sospettati dell'omicidio di Frank Bennett. Il fatto risaliva a molti anni prima, naturalmente. A suo tempo Bennett era stato dato per disperso, poiché il cadavere non si ritrovò mai. Perché tutt'a un tratto sospettarono di Iggy e Big George? Sembra che avessero minacciato di ucciderlo un paio di volte e la polizia della Georgia lo aveva messo a verbale. Così, quando trovarono il suo camion, furono costretti a rinchiuderli. Quale camion? Quello di Frank Bennett. Cercavano un annegato e invece trovarono quel camion nel fiume, non lontano dalla casa di Eva Bates. Così capirono che Bennett, prima di sparire, era stato nei pressi di Whistle Stop. Grady andò su tutte le furie perché qualche idiota aveva pensato bene di telefonare in Georgia per dare alla polizia il numero di targa. Ruth era morta 8 anni prima e Stamp e Peggy si erano già sposati e trasferiti ad Atlanta, quindi doveva essere all'incirca il 55 o il 56. Erano passati 25 anni dalla sparizione di Bennett. Il giorno dopo Grady portò Iggy e Big George in Georgia e Sipsy li accompagnò. Nessuno riuscì a convincerla a restare a casa, ma Iggy non vuole nessun altro con sé, così noi altri restammo a Whistle Stop ad aspettare. Grady cercò di non far trapelare nulla. Quei pochi in città che sapevano tenevano la bocca chiusa. Dot Weems era al corrente di tutto, ma non scrisse mai una sola parola in proposito sul suo giornale. Ricordo che la settimana del processo Albert e io andammo a Trutville da Onsell, che era terrorizzata, perché se Big George fosse stato giudicato colpevole di aver ucciso un bianco, sarebbe finito sulla sedia elettrica, proprio come Pinto. In quel momento entrò Jeanine, l'infermiera, che si sedette per fumare una sigaretta e rilassarsi. «Oh, Jeanine!» la salutò la signora Threadgood. «Questa è la mia amica Evelyn, quella di cui le ho parlato, quella con i disturbi della menopausa. Molto piacere. Salve!» Poi la signora Threadgood continuò dicendo a Jeanine quanto fosse carina, secondo lei, Evelyn, e se Jeanine non pensava che avrebbe dovuto vendere i cosmetici di Mary Kay. Evelyn sperava che Jeanine se ne andasse in fretta, perché così la signora Threadgood avrebbe finito la sua storia, ma l'infermiera aveva deciso di prendersi una pausa molto lunga. Quando Ed venne a prelevarla, Evelyn era molto arrabbiata perché adesso avrebbe dovuto aspettare un'intera settimana prima di sapere l'esito del processo. «Non si dimentichi dove si è interrotta», raccomandò alla signora Threadgood prima di andarsene. L'altra la guardò senza capire. «Interrotta? Sta parlando di Mary Kay? No, del processo!» Oh, certo, quello sì che fu un avvenimento. Arrivederci. Tribunale di Contea, Valdosta, Georgia, 24 luglio 1955. Stava per scoppiare un temporale e l'aria nell'aula di tribunale era soffocante. Iggy si girò e si guardò attorno con il sudore che le colava lungo la schiena. Il suo avvocato, Ralph Ruth, un amico di Grady, si allentò il nodo della cravatta e respirò profondamente. Era il terzo giorno di processo e tutti gli uomini che si erano trovati nel negozio del barbiere a Valdosta, quando Iggy aveva minacciato di uccidere Frank Bennett, avevano già testimoniato. Adesso era la sbarra Jake Box. Iggy si girò di nuovo e cercò con gli occhi Smokey Lonesome. Dove diavolo si era cacciato? Grady gli aveva mandato a dire che lei era nei pasticci e aveva bisogno del suo aiuto. Qualcosa doveva essere andato per il verso storto, altrimenti Smokey sarebbe stato lì. Iggy cominciò a temere che fosse morto. In quel momento Jake Box indicò Big George e disse: è lui l'uomo che minacciò Frank con il coltello, e quella è la donna che lo accompagnava. Tutti i presenti cominciarono a mormorare. Un uomo di colore aveva minacciato un bianco. Grady Kilgore si agitò sulla seggiola. Sipsy, l'unica altra negra presente, era stata relegata in galleria e ora stava pregando per il suo ragazzo, che continuava a chiamare così benché avesse 60 anni suonati. Senza neppure scomodarsi a interrogare Big George, il procuratore distrettuale passò direttamente a Iggy che salì alla sbarra. Conosceva Frank Bennett? No. Ne è sicura? Sì. Mi sta dicendo di non avere mai conosciuto l'uomo la cui moglie, Ruth Bennett, è stata sua socia in affari per 18 anni? È esatto. L'avvocato infilò le dita nel panciotto e guardò i giurati. Mi sta dicendo di non essere mai venuta nel negozio di barbiere di Valdosta nell'agosto del 1928 e di non avere mai minacciato di uccidere Frank Bennett, un uomo che non conosceva? Ci sono stata da quel barbiere. Pensavo che lei volesse sapere se eravamo mai stati presentati e la risposta è no. Minacciai di ucciderlo, ma ciò non toglie che non lo conoscessi affatto. Alcuni dei presenti, che non avevano simpatia per il pomposo procuratore, risero. Così, in altre parole, ammette di aver minacciato Frank Bennett. Sì. È vero che nel settembre del 1928 venne in Georgia con il suo amico di colore e ripartì portandosi via la moglie e il figlio di Frank Bennett? Solo la moglie, il figlio arrivò più tardi. Quanto più tardi? Di solito 9 mesi. Nell'aula si levò un'altra risata. Il fratello di Frank, Gerald, le lanciò uno sguardo bieco dalla prima fila. È vero che denigrò Frank Bennett davanti agli occhi della moglie e la convinse che il marito non era di buona fibra morale? È vero che le fece credere di aver sposato un uomo indegno? Oh, non ce ne fu bisogno, signore, lei lo sapeva già. Altre risate. Il procuratore si stava irritando. La costrinse o no a seguirla in Alabama, minacciandola con un coltello? Neppure questo fu necessario, aveva già preparato i bagagli quando arrivammo lì. Lui ignorò quest'ultima dichiarazione. Non è forse vero che Frank Bennett venne a Whistle Stop, Alabama, cercando di riprendersi ciò che era suo, ovvero la moglie e il figlio neonato, e che lei e il suo amico di colore lo uccideste per impedire a Ruth Jamison di tornare sotto il tetto coniugale e restituire il bambino al padre? No, non è vero. Il procuratore, un uomo pettoruto e imponente, si infervorò. Si rende conto di aver violato la cosa più sacra di questa terra? Una casa cristiana abitata da un padre, da una madre e da un figlio. Si rende conto di avere profanato il sacro vincolo del matrimonio tra un uomo e una donna? Matrimonio celebrato nel nome di Dio nella chiesa battista di Valdosta il 1 novembre del 24? E si rende conto di aver spinto una donna profondamente cristiana a infrangere la legge di Dio e a venir meno ai voti coniugali? Non è andata proprio così. Io credo che lei abbia allettato quella povera donna promettendole denaro e liquori e facendole perdere, seppure momentaneamente, la ragione. E quando il marito tornò a riprendersela, lei e il suo complice lo assassinaste a sangue freddo per impedire alla sua sposa di tornare a casa. Il procuratore le si avventò contro urlando: «Dov'era la notte del 13 dicembre 1930?» E G cominciò a sudare. «A casa di mia madre, a Whistle Stop. Chi c'era con lei?» Soltanto Ruth Jamison e Big George, c'era anche lui quella sera. Ruth Jamison può testimoniare in proposito? No. Perché no? Perché è morta 8 anni fa. E sua madre? È morta anche lei. L'uomo rimase spiazzato per qualche secondo, ma si riprese in fretta e guardò di nuovo la giuria. E così, signorina Threadgood, lei si aspetta che 12 persone intelligenti credano alla sua versione, nonostante 2 dei testimoni chiave siano morti e il terzo sia un uomo di colore che lavora per lei, ed era con lei il giorno in cui rapì Ruth Bennett dalla sua casa felice ed è noto per essere un negro bugiardo e incapace? Lei si aspetta che queste persone la prendano in parola? E perché dovrebbero farlo? Anche se era nervosa, Iggy pensò che il procuratore non avrebbe dovuto insultare Big George in quel modo. Devono credermi, pallone gonfiato faccia da babbuino, perché è la verità. Nell'aula si levò un boato e il giudice cominciò a battere il martello, ma senza molto successo. Questa volta Big George si lasciò sfuggire un gemito. L'aveva pregata di non venire al processo, ma lei era decisa a fornirgli un alibi per quella notte. Iggy sapeva che era la sua unica possibilità. Essendo bianca, lei aveva molte più possibilità di cavarsela rispetto a lui, soprattutto se l'alibi di Big George fosse dipeso dalle parole di un altro negro. Ma lei non avrebbe permesso che Big George finisse in galera, neppure se la sua vita fosse dipesa da questo. E forse dipendeva davvero da questo. Il processo si stava mettendo male per Iggy, e quando quell'ultimo giorno venne trascinato in tribunale un testimone a sorpresa, lei pensò di essere spacciata. Lui percorse il corridoio con la veste che spazzava il pavimento e lo sguardo più pio e santo di questo mondo. Sì, era proprio il suo nemico giurato, l'uomo che aveva tormentato per anni. Sono fritta, pensò. Dica il suo nome, prego. Reverendo Herbert Scroggins. Occupazione: pastore della Chiesa Battista di Whistle Stop. Metta la mano destra sulla Bibbia. Il reverendo Scroggins disse che aveva portato la sua, grazie. E, posata la mano sulla propria Bibbia, giurò di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità, che Dio l'aiutasse. Egli era confusa. Era stato il suo avvocato a chiamare quel testimone. Perché non aveva domandato a lei prima? Gli avrebbe spiegato che il predicatore non poteva che dire male di lei. Ma era troppo tardi e il reverendo Scroggins era già seduto alla sbarra dei testimoni. Reverendo Scroggins, vuole dire alla corte perché mi ha telefonato ieri sera che cosa mi ha detto? Il pastore si schiarì la gola. Sì, ho telefonato per dirle che so dove si trovavano E.G. e George Pullman Peavy la sera del 13 dicembre 1930. Non si trovavano dunque a casa della madre di lei quella sera, come è stato detto in precedenza in quest'aula? No, merda, pensò E.G. L'avvocato insistette. Mi sta dicendo, reverendo Scroggins, che l'imputata ha mentito circa i fatti di quella serata? Il reverendo si morse il labbro. Come cristiano non posso dire con certezza se abbia mentito o no. Secondo me ha soltanto confuso le date. Aprì la Bibbia e cercò una pagina in particolare. Ho da sempre l'abitudine di annotare sulla mia Bibbia tutte le date delle attività della mia chiesa, e mentre la sfogliavo ieri sera ho visto che il 13 dicembre 1930 era la giornata inaugurale della sagra all'aperto che teniamo ogni anno nel giardino della Chiesa Battista. E E.G. Threadgood era lì insieme con George Peavy, incaricato dei rinfreschi, come da 20 anni a questa parte. Il procuratore distrettuale balzò in piedi. Obiezione! Questo non significa nulla! L'assassinio può aver avuto luogo in qualunque momento nei 2 giorni successivi. Il reverendo Scroggins lo guardò con fierezza, poi si rivolse al giudice. È proprio questo il punto, vostro onore. La nostra sagra dura 3 giorni e 3 notti. È sicuro che la signorina Threadgood fosse presente? Domandò il procuratore. Il reverendo Scroggins sembrava offeso che qualcuno potesse dubitare della sua parola. Naturale che sono sicuro, si rivolse alla giuria. La signorina Threadgood frequenta regolarmente la chiesa, organizza molte delle nostre attività ed è solista del coro. Per la prima volta in vita sua, Iggy rimase senza parole. Per anni il club dei cetrioli sott'aceto aveva raccontato le bugie più assurde, credendo di essere imbattibile, e in 5 minuti Scroggins li aveva umiliati tutti quanti. Era stato talmente convincente che lei stessa per poco non gli aveva creduto. La signorina Threadgood gode di una tale reputazione presso la nostra chiesa che l'intera congregazione è venuta qui in autobus per testimoniare in suo favore. Al che le porte dell'aula si spalancarono ed entrò la folla più strana che Dio avesse mai riunito sulla terra. Smokey Lonesome, Jimmy Knothead Harris, Splinter Belly Hall, Crackshot Sackett, Inky Pardew, Bo Weevil Jake, Elmo Williams, Wartog Willie e via dicendo, tutti con i capelli tagliati di fresco da Opal e vestiti di abiti presi a prestito. Ed erano solo alcuni dei molti vagabondi che Iggy e Ruth avevano sfamato negli anni e Smokey era riuscito a radunare in tempo. Testimoniarono a uno, ricordando fin nei minimi dettagli la sagra di quel dicembre del 1930. Ultima salì alla sbarra Eva Bates con un cappellino a fiori e una borsetta. Per poco non spezzò il cuore alla giuria quando ricordò come Iggy Threadgood l'avesse accolta a braccia aperte quella prima sera di festa, come l'avesse osservata, come dopo l'ispirato sermone del reverendo Scroggins contro i demoni del whisky e della lussuria, Dio fosse chiaramente entrato in lei. Il giudice, un uomo smilzo con il collo rugoso, non perse neppure tempo a chiedere il verdetto della giuria. Batté il martello e disse al procuratore: Percy, non mi sembra che tu abbia grandi prove. Prima di tutto non è stato ritrovato alcun cadavere. Secondo, abbiamo delle testimonianze che nessuno potrà smentire. Diremo che questo Frank Bennett si è ubriacato, è caduto nel fiume con il suo camion ed è stato divorato dai pesci. La chiameremo una morte accidentale, insomma, ecco di che cosa si è trattato. Picchiò ancora una volta il martello. Il caso è chiuso, dichiarò. In galleria Sipsi cominciò a ballare. In aula Grady sospirò di sollievo. Il giudice Curtis Smoot sapeva benissimo che non c'era stata alcuna sagra all'aperto alla chiesa battista di Whistlestop in quel mese di dicembre, e da dove stava seduto aveva visto anche che il pastore non aveva affatto una Bibbia nella copertina del libro su cui aveva giurato. In vita sua non aveva mai visto una simile accozzaglia di personaggi. In più aveva una figlia, morta un paio di settimane prima, dopo aver vissuto come un'emarginata alla periferia della città per colpa di quel Frank Bennett. Quindi non gliene importava molto di chi avesse ucciso quel figlio di buona donna. Dopo la fine del processo, il reverendo Scroggins andò a stringere la mano a Iggy. Ci vediamo domenica in chiesa, sorella, le disse strizzandole l'occhio, e se ne andò. Suo figlio Bobby aveva saputo del processo e senza la minima esitazione gli aveva riferito di quella volta che Iggy lo aveva liberato di prigione, e così proprio Scroggins, il bersaglio dei suoi scherzi più crudeli, era venuto a salvarla.